English Bit di Giulia Crivelli. Drop. Genworth shares drop after China ocean-wide deal. Il Wall Street Journal titolava così un approfondimento su una possibile fusione tra due colossi del settore assicurativo, l'americana Genworth e la cinese Oceanwide. Le azioni Genworth in discesa dopo l'accordo con China Oceanwide, diremmo in italiano. Il verbo che ci interessa è to drop, regolare, to drop, dropped. Dropped. Può voler dire molte cose, si trasforma in tanti phrasal verbs ed è altrettanto ricco il ventaglio di significati del sostantivo. Be careful not to drop that plate. Stai attento a non far cadere quel piatto. The temperature has dropped considerably. La temperatura è considerevolmente scesa. In senso più figurato, oltre a cadere, calare, scendere, to drop vuol dire anche consegnare, se si aggiunge la preposizione off. You left your jacket at my house, but I can drop it off on my way to work tomorrow. Hai lasciato la giacca a casa mia, ma posso consegnartela domani mentre vado a lavorare. Aggiungendo out, il significato cambia ancora. He has dropped out of active politics. Ha lasciato, si è chiamato fuori dalla politica attiva. Con in, by o into, invece la traduzione diventa fare visita, recarsi, detto in modo informale. Drop by sometime. Fai un salto da noi appena riesci, diremmo in italiano. I thought I'd drop in while I was passing. Ho pensato di farti visita mentre passavo. Sorry we're late. We dropped into the bar. Scusateci se siamo in ritardo. Ci siamo infilati in un bar. Veniamo al sostantivo. Il primo significato è goccia. Drop of rain, blood, water. Could I have a drop more milk in my coffee, please? Potrei avere un'altra goccia di latte nel mio caffè? Poi naturalmente c'è caduta, come nel titolo del Wall Street Journal. Drop in prices, temperature, profits. Come per il verbo, drop vuol dire anche consegna, scarico. Aid agencies are organizing food drop to civilians. Le organizzazioni umanitarie stanno organizzando consegne di cibo ai civili. Tra le curiosità, l'aggettivo drop dead, qualcosa che ti lascia stecchito, figurativamente. A drop dead gorgeous Hollywood star, un'attrice che ti stende per la sua bellezza. Drop down menu, invece, è quello che in italiano chiamiamo, in una schermata di computer, il menu a cascata.